Ok, quick recap. Nibel sa benissimo dov'è perché sono passate poche ore nel mondo reale dall'ultima volta che ne abbiamo parlato. Il recap è più per Mif. Dopo gli eventi di No Longer Attendilo, Faithless, scusate. hai preso due o tre treni che ti hanno portato finalmente ad Apeira, alla stazione centrale. La stazione principale. Scendendo dal treno, noti che l'architettura del luogo è strana, ma in realtà non è la prima volta che passi di qua. Era solo qualche anno che non ti capitava di venirci. Quindi rivedi le colonne fatte di metallo con delle quasi ragnatele, con un reticolo che regge la struttura, ma che richiama l'arte Achaies. E è molto meno affollata delle altre città che hai visto, la stazione. E dopo, non dico esserti persa, però comunque aver vagato un minimo per capire qual è l'uscita da questa stramaledetta stazione, arrivi in quella che è una piazzola, diciamo. Io ho la cartina geografica che ora tiro fuori e mi tengo Dai, davanti. vieni. Ce l'avrete anche voi dal Stavo Telegram. sul canale Ah, è vero, di... anche sul canale, è vero, ce Sul l'abbiamo in... canale? Sì, in Dove dire? Faithless, c'è proprio la Ricordo giusto. cartina. Esatto. Eccola qua. Allora, la stazione centrale è circa in alto a sinistra delle mura della città. Dovresti vederla. La ferrovia è quella linea molto poco marcata, fatta a matita, che passa. Ok, immagino Ok, sì, l'abbiate ho vista. capito. Perfetto. E ok, c'è una piazzola, diciamo, verso sud. Sì, boh, c'è da entrambi i lati, ma voi siete in quella verso sud perché è da lì che si esce. E oltre a tutto il via vai di gente che sa esattamente dove sta andando, sta tirando dritto nella loro direzione, rimangono fuori tre persone. Uno, benissimo. Vado alla descrizione in ordine sparso, così non vi lascio capire chi è chi. C'è una donna sulla trentina, lunghi capelli biondi, abiti bianchi. Sembra straniera, sembra non essere di questo di Achaies. E si sta guardando intorno come se cercasse qualcosa, ma non si capisce. La seconda persona è una ragazza di razza mista, cioè scura di pelle, però non fully black, diciamo. Anche questa con i capelli biondi, bassa, e indossa abiti eleganti dell'estremo nord. O comunque abiti, se non eleganti, costosi, cioè begli abiti. La terza persona, ovviamente le descrizioni dei vostri personaggi poi ve le faccio fare meglio quando è chiaro, volevo darvi il panorama di questa cosa. La terza persona è un grande uomo, più alto di 2 metri, con un cappello, un cappotto e baggy clothes, e sembra avere qualcosa su un lato della faccia, tipo delle escrescenze, e lunghi capelli tendenti al rosso. Queste tre persone sono circa nello stesso punto della piazza, che stanno cercando di capire in che direzione andare, e tutti gli altri invece sono ai bordi della piazza, sono già andati via. La piazza in sé non è particolarmente interessante, è stata costruita di recente all'interno delle mura, quindi ha un pavimento creato con alchimia molto efficiente e resistente, ma non particolarmente bello come quelli classici Achaies. Se guardate verso sud, invasione di campo del micio, sono molto contento di questo fatto. Stupendo. Se guardate verso sud, c'è la città alta, l'Acropoli, quindi tutti i palazzoni, la chiesa, il palazzo, il municipio. Se guardate verso nord-ovest, c'è la scuola di magia. Se guardate verso nord-nord-est, c'è il quartiere nuovo. C'ha un nome che ora andiamo a vedere se vi interessa. Le altre parti della città da qui, da questa piazzetta, non si vedono. Vi chiedo a ciascuno di voi due cosa volete fare. Scegliete voi chi parte per primo o chi fa cosa. Vai pure, Eos. Il momento è della giornata. Pomeriggio. Non tra mezzogiorno e luna, diciamo. Ok. Io ripenso un attimo alle parole che mi ha detto la donna sul treno. Uh-huh. E quindi rimango un attimo a ponderare sedendomi ad una panchina. Come ho detto anche nell'altra sessione, mi prendo il mio tempo, non ho fretta di niente nella vita praticamente, quindi mi metto alla panchina, riaccendo la mia pipa. Uh-huh. E ricomincio a fumare, guardando i treni che passano, le persone che ci sono. Non do neanche particolarmente attenzione alle persone che sono scese sul treno, che sono sulla banchina al momento. Rimango lì a pensare un po' agli ultimi eventi, alle parole del sacerdote. Perfetto. La panchina è in direzione del treno, quindi praticamente sei arrivato nella piazzetta e poi sei ritornato un attimino indietro, proprio qualche passo indietro. Dimmi tu cosa vuoi fare. Sara. Sì, io ho lo zaino, ho lo zaino ovviamente, perché sono sempre in giro, ho il mio zaino. E c'ho al lato dello zaino piccone che tengo lì, un po' usurato, con le punte usurate. Uh-huh. Lo poggio lì di lato e rimango un po' a pensare al momento. Ok. Penso che se è mezzogiorno luna ci sarà caldo. È ottobre. Sono al 5 ottobre. Dobbiamo chiederlo, cazzo, dovevamo chiedere questo ad Eddie, vabbè, glielo chiediamo dopo. È il 6 ottobre forse. Ok, è uno di quei giorni lì, sì, va sì, bene. Sì. Però comunque, cioè, ci sarà caldo. Per me c'è caldo, vaffanculo, per me c'è caldo. Al collo ha questo fazzolettino azzurro, mettiamolo così, quindi se lo slega, se lo mette ad un braccio e pian piano si alza... le maniche della camicia che porta, sbuffando letteralmente perché ne è già stufagra di questo posto considerando il perché è scesa. E in realtà lei ce l'ha un obiettivo, e per evitare di pensare da dove è venuta e cosa ha passato prima, quasi quasi si guarda in giro cercando di capire a chi è che può chiedere informazioni sulla città e capire dov'è il tempio, dove dovrebbe andare. Allora, la bionda chiaramente non è di qua, cioè proprio è palesemente dell'impero, sia per l'aspetto fisico che per il vestiario che per il modo di fare, cioè è una cosa che ormai riesce a intuire. Il grosso uomo sembrerebbe del posto, cioè le sue feature sono un po' borderline, nel senso il colore della pelle fitta con il luogo, il colore dei capelli meno, i vestiti sono chiaramente del luogo, la taglia meno. Ok. Le altre persone stanno andando via molto velocemente, quindi nel giro di 2 minuti siete rimasti solo voi tre nella piazza. Sì, sì, non c'è nessun problema. Allora, mi fa, una volta che si è sistemata, si sistema di nuovo la borsa che ha accanto a tracolla con i suoi libroni, e penso che si diregga verso l'uomo seduto sulla panchina. Ok, allora ora vi chiedo di descrivere voi i vostri personaggi con più dettagli, e se volete possiamo mettere le immagini in Fateless, cioè oddio, se ce l'hai a portata di mano, sa, io quella di Eos ce l'ho. Io ho il design finale, però quello moderno. Come bisogna vuoi togliere un po' di roba. Quello che ho messo sul portfolio, ma possiamo metterlo Fateless. Possiamo metterlo temporaneo e poi quando lo fixi lo cambio. Comunque, se per voi va bene, fate la descrizione e poi metto l'immagine, partiamo da Os. Se vuoi inizio io. Sì, sì, vai, vai. Nibel è un enorme uomo, appunto, come ho detto, viene di oltre 2 metri, di età avanzata, diciamo. A primo acchito sicuramente è oltre i 40 anni, forse meno di 60, non lo so, probabilmente la fatica sulla sua faccia tradisce un po' l'età, lo rende un pochino più difficile da comprendere quanti anni abbia. Ha una folta barba castana, lunga, dei lunghi capelli color rosso mattone che arrivano praticamente fino alla fine della schiena, lisci. Ha un berretto e una giacca che, per chi è avvezzo a alcuni mestieri, riconosce che sono da minatore. Okay. È una sorpresa visto che ha un beccone dietro. Indossa dei guanti molto spessi, dei normalissimi pantaloni e delle normali scarpe. Non sembra avere delle scarpe antiche o scarponi del genere, ma ha delle normali scarpe. E okay. Ha con sé un grosso zaino che al momento tiene a terra con appunto il piccone al lato. L'occhio che riesce a vedere è all'iride color ambra. Okay. Però avvicinandosi un po' alla persona riesce a notare che la metà sua destra del volto ha un colorito diverso dalla sua pelle normale, che è leggermente mulatta, diciamo, leggermente scura. Okay. Di pelle la parte destra del volto è bluastra, un grigio bluastro. L'occhio sembra essere vitreo, sembra essere azzurro, però sembra avere tipo la sorta di cataratta. E ha sullo zigomo e su la texture della pelle, quella blu, è simile alla pelle bruciata, però ha chiaramente un colore diverso dalla okay. pelle bruciata. E sullo zigomo ha delle escrescenze che ricordano dei funghi blu bioluminescenti. Ok. Beh, vedi arrivare verso di te questa donna. Piani ci avevamo detto 26? O 26 o 27, sì. Sì, uno dei due, comunque. Non mi ricordo quando li fa, però comunque a breve ne farà, esatto. 27. Esatto, sui late 20s. Che ha questi lunghi capelli ricci, biondi, questa pelle comunque tipo color cappuccino. E la cosa che ti colpisce sono gli occhi azzurri che fanno un sacco di contrasto, e comunque il vestiario che effettivamente è pregiato, perché ha questa camicia che sembra tipo di cotone o di lino con i bottoni tipo dorati, ok? Noti che comunque sono particolari e hanno il simbolo, glielo dico, di una ascia di penne. Lui sa, Trice. Non credo faccia il collegamento, al limite poi gli facciamo fare un test di storia quando diventa rilevante. Ok, va bene, vedi che comunque su questi bottoncini c'è il simboletto di una ascia di penne. I pantaloni, porta dei pantaloni larghi, lunghi e molto larghi, tipo baggy pants, mettiamola così. E in questo momento ha un fazzolettino di tipo un azzurrino cielo, mettiamola così, legato all'avambraccio, altezza tipo gomito, mettiamola così. E sì, la vedi che è molto curata, in questo momento ha i capelli raccolti perché ha un sacco di caldo, la camicia è sbottonata perché appunto ha un sacco di caldo, e comunque scarpe eleganti. Vedi però che ha questa pesante borsa a fianco, e un pochino mezza aperta, e puoi scorgere tipo dei libroni, non sai di cosa possono essere, appunti, magie, cose di questo genere. E niente, lei è molto tranquilla, in realtà, cioè, la vedi che è abbastanza sicura, non è che ti approccia in modo timido, si siede a debita distanza da te e fa: mi scusi, la posso disturbare un secondo? L'uomo sta accendendo la sua pipa. Prima che inizi a parlare, la mette in bocca e fa qualche tiro con il suo psicotabacco, qualsiasi cosa sia. E a primo acchito, come persona, sembrerebbe una di quelle persone che non ha minima voglia di parlare, tipo, cioè, è proprio quella persona che non vuole essere minimamente approcciata. Però nel momento in cui gli rivolgi parola, in realtà ti dà uno sguardo in realtà sorpreso, non lascia nascondere le emozioni del fatto, diciamo, la persona di ma sei sicura di voler parlare con me, dico. E ripetimi la domanda, cosa hai detto? Se può disturbarti un secondo. Ok, fa due tiri con la pipa e dice: certo, dimmi tutto. Mi scusi per la domanda, mi presento, sono Mif. Sono più o meno nuova da Paira, quindi è del posto per caso, sto cercando una cosa particolare. Fa due sbuffi con la pipa. Sì, sono del posto, posso guidarti se hai bisogno. Vedi che Mif sorride con questo sorriso smagliante, gli occhi un pochino tipo allungati a forma di volpe, no? E fa: perfetto, non ho sentito il suo nome. Mi chiamo Nibel, piacere. Piacere, ti allunga la mano. E ti porge la mano, inizialmente ti porge la mano destra e poi la ritira e ti porge la mano sinistra. Mi fa un attimo di tipo noted, ok, capisco, e anche lei ti porge la sinistra e te la stringe. E non so quanto è alta Mif, però c'è, Mif è 1,50 m. Ok, cioè la mano di Mif è tipo grossa come il tuo braccio. E ce n'è ancora un po'. Esatto, Mif è molto rispettosa, non farà osservazioni, però vedi che sta guardando. In realtà fare curioso, non stringe tra l'altro la mano, ma in maniera molto delicata, non ha una maniera rudi. Bello, Mif lo nota e quindi fa un piccolo cenno e non è la mia prima volta da Peira, però è anche vero che non mi sono fermata molto, sto cercando un tempio in particolare. Ce ne sono tanti ad Apeiro. Ne sono consapevole, non penso neanche sia semplice. Mi hanno detto che è un tempio di Gerus. Non so cosa significhi. Hai detto quello, io me lo sono appuntato. Sì, sì, sì. E Nibel sa di cosa stai parlando, nel senso che conoscere almeno nomi e posizioni dei templi è una cosa che ad Apeiro sanno tutti, cioè non è una roba raffinata, è come sapere le parrocchie della tua città. Io nella mia città le conosco, quindi immagino che Nibel abbia la stessa cosa, quindi non ti faccio tirare per sta cosa. Il tempio di Gelos è abbastanza vicino, nella parte nord della città, nel quartiere settentrionale, che è quello nuovo. Il tempio in realtà è molto vecchio, cioè ci hanno costruito il quartiere intorno, risale a proprio le origini della fondazione della città, è stato costruito, distrutto e rifatto più volte e è a circa 2 km da qui. C'è una strada principale sulla destra, a un certo punto lo vedrete. Il tempio di Gelos che non è uno, cioè non è quello che mi è stato detto di evitare, che era quello di Diru, però esatto. Quindi in realtà potrebbe anche interessarmi andare al tempio a fare un sopralluogo, diciamo. Quindi le dico: in realtà avrei bisogno di fare un salto in alcuni templi pure io. Se non ti dispiace, posso accompagnarti direttamente. Sarebbe fantastico, in realtà. E grazie mille della sua disponibilità. E se non le dispiace, andiamo subito. Sì, non è un problema. Ma dammi pure del tuo. Ah, ok, perfetto. Vi ridacchia un attimo e insomma fa bene. Allora andiamo. Fai strada. Non sì. Conosco bene i posti. Non... Nibel si alza, quindi vedi questo obelisco d'uomo. E qui Mif ti osserva, cioè qua ti guarda, ha gli occhi leggermente sbarrati perché, ok, da seduto si capiva l'importanza, però da così, cioè, ti senti un attimino in soggezione, fa, ok. Nibel è alto, nello specifico, 2,13 metri. È più alto di tuo papà. Non è solo alto, è anche largo, ha proprio le spalle particolarmente larghe. Wow. Devo andare a vedere quanto era alto Zanzan. Cioè. Poi lo ricerco. Vabbè. Mif è abituata ad avere uomini grandi attorno, però tu sei il più grande che abbia visto in questo momento. È più alto di Zanzan. È più alto di Zanzan. Tanta roba. Sì. È il vecchio tank, era veramente, è esattamente la mia altezza nella vita, se non sto assolutamente preparando. Assolutamente. Allora dovete fare una cavalcavia per sorpassare la ferrovia e arrivare oltre le mura della città. Da quel punto in poi c'è una discesa. L'acropoli è costruita in alto, quindi da qui in poi non è una scalinata, è proprio una strada che scende e costeggia la ferrovia e poi arriva nel vialone centrale di Kainoe. Kainoe è il nome del quartiere. È un quartiere moderno residenziale, quindi è pieno di gente di tutte le fasce sociali. Specialmente in strada è molto comune avere gente che fa lavori un po' paralegali. Parliamo sia di circensi, gente che legge le carte, gente che vende del cibo in strada, gente che vende oggetti ai passanti, c'è un po' di tutto. E notate, perché non lo sta facendo in maniera sneaky, che la donna bionda di prima vi sta seguendo a una certa distanza, cioè sta tipo 10 metri di distanza a voi, però vi sta seguendo. E oltre a questo niente, si vede chiaramente che sul vialone principale ci sono alcuni edifici molto antichi, ma la maggior parte sono modernissimi, cioè sono stati costruiti negli ultimi 25 anni. Si vede dall'architettura, dal fatto che sono tenuti molto bene, dal fatto che sono molto alti, hanno un numero di piani superiore a quelli del Medioevo, e per il resto è abbastanza nondescript. Essendo una città così moderna, costruita in così poco tempo, un quartiere così moderno, così costruito in così poco tempo, non ha quel vibe classico che ha il resto di Apeira. È un po' un posto. Vi chiedo cosa volete fare e poi vi dico quando arrivate al tempio, com'è il tempio. Beh, mi fa si guarda in giro incuriosito. Di solito al nord sono meno attivi nelle strade da quel punto di vista. Mi cade un attimo l'occhio e chiedo: da dove vieni? Se posso sapere. Ah, sì, non c'è nessun problema. Vengo da Brandiga, regno di Thrace. Estremo nord. Che cozza con la tua cognizione, per cui al nord sono biondi con gli occhi azzurri e chiari di pelle. Biondi ci siamo. Occhi azzurri pure, chiari di pelle no. Anche mio padre veniva da Thrace. Ah, sì? Sì. Pensate. Il mondo. Ho notato ultimamente nei miei viaggi che il mondo è molto piccolo. Tanto sembra più grande di quanto pensiamo. Tu non hai avuto la fortuna di viaggiare più di tanto lontano da Peira. Non che so posto come... hai visitato? Pochi chilometri da qua, suppongo. Non credo di essere andato più di tanto lontano. Sono andato a mare, quando ero più piccolo, però non mi sono mai azzardato ad allontanarmi dalle mie terre. È un'esperienza singolare poter viaggiare. Non solo conosci persone, conosci posti, filosofie di vita, e ti fanno incontri particolari, oltretutto. Ripensa a tutto quello che ha vissuto, tipo... Quindi sì, se mai avrai l'occasione, prova a fare un giro fuori. È molto soddisfacente. Gli hai detto il tuo cognome? No. Ok. Prego. Thank you. Sì, sì, sì. Se capiterà, prenderò l'occasione al balzo. Diciamo che troppo di tempo sono rimasto fermo, adesso ho deciso di muovermi un po'. Sì, se i miei obiettivi mi porteranno fuori dalla città, uscirò volentieri. Posso chiedere che tipo di obiettivi? Libe rimane un po' in silenzio, fa qualche sbuffo sulla pipa. Ripenso un attimo alle parole Pao, il treno. Di? Scusate che non ho sentito. Ha detto Pao. Di Pao sul treno. E dopo un attimo di silenzio ti chiede: cosa ne pensi della tecnologia delle centrali? Scusami, questa è Sara che ride. Ok. Ti guarda un pochino, cioè proprio vedi che ti lancia un'occhiata, poi decide di guardare dritto a sé e fa: io penso ci sia di più di quello che ci dicono. Penso, non ne sono ancora sicura. Bene, siamo in due allora. Ho degli amici che sono entrati nelle centrali. Ma sì? Che ne sono usciti? Sì. Aspetta, no, aspetta. Wait. Mi amici. 5 su 6. Biff sa che Naya è vivo e non lo senti dall'ultimo messaggio che ha mandato. Sì. Allora retcon, scusate. Biff fa un sorriso e fa: no, non lo so, in realtà è da un po' che non sento questa persona. Per qualche motivo non mi sorprende la cosa. Neanche a me. Vedo che abbiamo le stesse idee, però forse discuterne per strada non è una buona idea. No, infatti, e Myth si è accorto, cioè hai detto, Pianeccio, che è palese che ci sta seguendo la sì, tizia. Vi do un altro clou che forse dovevo dirvi e arrivo subito. Mm-hmm. Arrivo subito con la webcam. State parlando la lingua di Nibel. Okay. Lingua di Apeira, quindi. Finish. Sparito. Sì, esatto. Cioè, no, perché allora qua è un problema. Myth sa qualcosa, ma lo sa malissimo. Ecco. Aspetta, stiamo parlando tipo common, ok? Oppure la lingua di Apeira? Ok, scusatemi. E cosa avete detto? Scusate, che non c'era. Allora, la domanda è: cambia molto se stiamo parlando della lingua madre di Nibel, cioè nella lingua di Apeira, o nella lingua, cioè... No. Farei qualche strafalcione, ma per il resto si capisce. Ok, a posto. Io non credo di conoscere altre lingue, giustamente parlando. Ottimo! Forse la lingua del nord per suo padre, probabilmente più l'ha insegnata. C'è la lingua di scambio, che la conoscono praticamente tutti, che è l'equivalente dell'inglese oggi e sarebbe una variante del tedesco, sì. Cioè il latino tedesco. Sì, diciamo che Nibel lo conosce, però probabilmente è abituato a parlare la lingua di Apeira della zona. Allora vedi che Mif comunque si adatta, nel senso non è un problema, però cioè fa palesemente degli errori. Mm-hmm. Vabbè, Nibel ci fa caso e chiede: preferisci parlare in un'altra lingua? No, a meno che non ti dispiaccia che faccia degli errori, preferirei di no in realtà. Vorrei allenarmi da questo punto di vista, imparare bene le lingue del posto e dove vado. Può essere utile. Non è un problema per me. Ha detto che suo padre viene da Trais. Sì. Sono curiosa, è difficile trovare persone del regno così tanto distanti. Si è spostato quando era giovane, lui era un pescatore, è sceso a sud per pescare in acqua più tranquille. Ah, comprendo, sì, effettivamente ho fatto qualche viaggetto per mare, non è una bella vita. Diciamo che purtroppo dove vai nelle acque profonde troverai sempre dei pericoli, e nonostante sia venuto qua per pescare in acque più tranquille, comunque ci ha lasciato la pelle, però l'ha fatto in mare dove amava stare, quindi. Mif subito prontamente fa le mie condoglianze, non volevo riafferrare vecchie ferite. Non ti preoccupare, ero molto piccolo, sono passati molti anni, molte vite ormai. Bene, niente. Com'è la tua casa? Com'è Trais? Ah, Branziga, io in realtà non vivo vicino alla città, per fortuna mia madre odia le persone quanto le detesto io, e quindi hanno deciso di prendere una casa un pochino fuori. Sono molto vicino al confine con la Gulag, e a parte il freddo, che personalmente adoro, e si tira un attimino il colletto della camicia, e in realtà è tutto molto tranquillo, piatto, mettiamola così. Nevica la maggior parte dell'anno, poi ci sono alcuni mesi dove c'è veramente tanto caldo. E ho un lago vicino a casa, quello è molto carino da pattinarsi sopra quando si piace. Sa pattinare? Cosa? Sai pattinare? L'ultima volta che l'hai chiesto è andata benissimo sta cosa. È andata benissimo, esatto. Scusa. No, non ho mai pattinato in vita mia. In realtà con la mia stazza credo che farei solo danni. In realtà si tratta di tecnica. Non è un problema. E Mif dà ancora un'occhiata dietro di sé e fa... L'hai notata anche tu, la signora dietro? No, non ho notato niente. C'è qualcuno? Sì, ci sta seguendo dalla stazione. A quanto pare. Do un'occhiata alle strade, vedo se riesco a trovare delle altre stradine per, diciamo, puoi fare un giro strano per arrivare dietro al tempio, fondamentalmente. Ok. Cioè l'allunghi, però appunto... Vabbè, in realtà Nibel non è uno stratega, quindi semplicemente si ferma un attimo, si gira e si rivolge alla donna e dice: ha bisogno per caso? Ah, così proprio, oh, fantastico, sì. Bellissimo, sì. Le fa la cosa di Animal Crossing, hai presente che gli compaiono le lineette gialle in testa, tipo... sto cercando un posto anch'io, ho sentito che stavate andando al tempio... di Yelos e dovevo andarci anch'io, quindi ho pensato di seguirvi. Non c'è problema per me. Per te invece? Per me va bene. Ah. E Mif scannerizza la donna, letteralmente la guarda a testa a piedi per capire se potrebbe essere, insomma, pericolosa, capire da dove viene, cose di questo genere. Si avvicina a Mif prima, le tende la mano, è più alta di te, 1,75 m circa. Okay. E gliela stringe. Oraclanum, e poi uguale a Nibel. Piacere, Oraclanum. Piacere. Anche lei porgo la mano sinistra. Piacere. E niente, quando dice il suo nome io ricambio, dico Miss Standout. Mi rolli un di 10 per cultura, Nibel? Sì. Non mi aspettavo lo dicessi. Ha detto tutto il nome. Io si prende. C'è lo scoppio anche questo? Sì. Sì, cioè sempre hai più... lo consideriamo storia, sì, più uno. È la mia scheda questa, sì. Ah, ok, sì. Vabbè, 5. 4 più 1, 5. Non ti dice granché sta cosa. E... ok, niente, quindi è un nome e lei ti sta guardando ora a Mif così, okay. E poi fa finta di niente, ok. Guardando invece Nibel dice: io sono una dottoressa e oh no, mi incuriosisce la cosa che hai. Ne ho visti tanti di dottori in vita mia. Cosa potrebbe dirmi di più? Io, i miei interessi sono riguardo le malattie che non funzionano. Gira lo sguardo verso Mif, che non vengono curate dai Medikit, e poi riguarda verso di te. Mi incrocia le braccia intanto, mentre la sua poker face, e sta a guardare. Ho qualche risultato, nel senso, sono riuscita a guarire alcune malattie che non si possono guarire con i Medikit, però ogni malattia è diversa, c'è uno studio da fare. Sì. E peraltro io sono qua per questo motivo, per motivi di ricerca medica. Non mi dispiacerebbe avere un consulto, ma prima abbiamo delle altre cose da fare. Sì. Immagino che se sei arrivato fino a quel punto reggerai ancora un paio di giorni. Mi falta faccia... le sopracciglia. Poi che proprio... Moai, emoji moai. Ok. Mi fa sotto voce fa che delicatezza. E seguite la strada dritta. Lei in realtà diventa silenziosa dopo questo scambio, forse si è imbarazzata or something. E arrivate davanti al tempio. il tempio di Gelos. La struttura all'esterno è decadente, è notevolmente più vecchio degli edifici che lo circondano. Richiama l'architettura Caies antica, quindi ha un piccolo porticato davanti, sorretto da colonne doriche. Sulla parte in cima della colonna sono presenti simboli sacri, che nel caso di Gelos dovrebbe essere un cerchio con dei raggi, cioè sole. Veramente semplice. E anche delle figurine, cioè degli omini disegnati in maniera abbastanza stilizzata, che rappresentano le personificazioni degli astri, del dio del sole, eccetera, eccetera. Ora, se guardate più in alto, ci sono delle vetrate molto colorate, con il giallo, l'oro come colore dominante, e dei disegni tondeggianti, cioè cerchi concentrici. Sono moderni, questo implica che probabilmente nell'antichità erano delle finestre vuote e poi hanno costruito queste vetrate per, non so, per non avere il buco. E a parte questo, le porte, anche il portone è moderno, è di legno, è alto 2,5 metri, 3 metri, comunque molto più di una persona. E anche questo è stato fatto di recente, si vede dal fatto che il legno è molto pulito, è un tipo di legno lavorato manualmente, quindi non con l'alchimia. Per il resto... una porta in cui senza abbassarmi. Esatto. E per il resto la struttura in realtà è anche abbastanza povera e spoglia. Vorrei che mi diceste cosa volete fare, cosa ne pensate. Siamo arrivati, eccoci qua. Mif si guarda attorno, ti ringrazia e fa... Beh, vogliamo entrare? Bisogna fare qualcosa di particolare per entrare? Stai cercando qualcuno in particolare? Qualcosa, mettiamola così. Sono anche io qui per ricerche, ma di altro genere e tipo. Io dovrei parlare col sacerdote in caso. Bene. Allora, se non è un problema, entriamo insieme. Entra anche lei? Sì, e sì, indica sì, la... sì, sì, sì, sì. Ok. Nibel butta la tenere della pipa a terra. La sbatte un pochino, la ritira nella giacca, tira fuori una... cazzo si chiama? Mi viene la boccetta, però sono, vabbè, quelle tipiche di quegli alcolici, la... le fiasche? Tipo le... Esatto. Fa due sorsi, la chiude e la rimette nella giacca. Si schiarisce un po' la voce, dopo aver bevuto magma. E si dirige all'entrata del tempio. Mi fu uguale. La signora che vi sta accompagnando entra normalmente senza strani rituali, cioè entra per ultima, però aspetta che entrate prima voi. Ok, vi faccio una brevissima descrizione del tempio. La leggo, penso. Ora guardo se è leggibile o no. Ok, l'interno presenta stili diversi, tutti mescolati insieme. La prima cosa a colpire chi entra nel tempio è la gigantesca statua di Gelos. Un giovane bellissimo, una statua greca, scusate, con raggi che gli circondano il capo, una sfera d'oro nella mano sinistra, quindi quell'altra, e un bastone che culmina con una fiaccola nella destra, quindi è messo tipo... statua della libertà con una palla invece che un libro. La statua è alta più di 3 metri, quindi il doppio di una della scala 1 a 1, scala 1 a 2, quello che è. È in bronzo con un sottilissimo strato d'oro che la ricopre, scrostato in corrispondenza delle giunture, per questo capite che è in bronzo, perché tipo dove c'è la definizione dei muscoli è venuto via lo strato d'oro e si vede una linea sotto di bronzo, uguale ovunque ci siano delle linee che sono un po' più marcate. Le parti lisce invece, come il petto e la sfera, sono conservate meglio, sono, non hanno queste scrostature, non si vede il materiale bronzeo dietro. Il piedistallo su cui si erge la statua è di legno, con supporti di ferro, e a vederlo così sembrerebbe essere la cosa più vecchia della struttura. Cioè il legno è proprio, non dico marcio, ma c'ha i suoi anni, cioè si vede che è invecchiato, ha i segni delle tarme, i segni del tempo, un sacco di graffi, eccetera. Però regge comunque la struttura, la statua. Sopra la statua c'è una piccola cupola che la circonda e si vede che è di epoca Acaies, perché è estremamente rudimentale, cioè non è una vera cupola, è una struttura a base circolare sulla quale ci sono dei cerchi concentrici che arrivano a formare una finta cupola. Cioè, collasserebbe se viene via un pezzetto di questa cosa, mentre invece le cupole sono autoreggenti, eccetera, eccetera. E anche le colonne che la sostengono sono di epoca antichissima, cioè l'epoca Acaies è divisa in tre fasi, questa risale alla prima fase, quindi super vecchia, circa 2000 anni. La parte centrale della chiesa, quindi venendo un po' più verso di voi, è di epoca classica è 5-600 anni dopo sta roba qua, con alcuni elementi riparati di recente. Si vede la differenza di colore nei materiali impiegati, per esempio c'è una colonna a cui mancava un pezzo e l'hanno riempita con un cemento diverso, ma si vede la differenza di colore, quindi non un lavoro eccezionale. Lo stile di questa zona è più Ronum, con forme squadrate e funzionali. Infine, la porta e tutta l'area dell'entrata sono moderne, come vi dicevo, sono realizzate con lo stile del 1400 o addirittura successivo, e a parte la porta, che è di vero legno, il resto sembra fatto con l'alchimia. C'è un tentativo di imitare l'arte classica, ovvero con le colonne che hanno la parte superiore, eccetera, che richiama l'esterno, eccetera, però sia i materiali che alcuni dettagli, per uno che ha l'occhio per queste cose, si vede che non coincidono. Le panche di legno sono anche queste recenti, sono state aggiunte di recente. La chiesa è vuota, ad eccezione del... No, in questo momento esatto è completamente vuota, c'è una porticina in fondo a destra che realisticamente porta o al piano di sopra o eventualmente, se ce l'ha, un piano di sotto. Comunque si capisce che c'è qualcos'altro sulla destra, mentre sulla sinistra c'è tutta una vetrata e quindi si vede direttamente l'esterno. In altre parole, siete nella chiesa solo voi tre. Beh, singolare comunque come vista. Mi aspettavo una cosa così mista, mischiata nel tempo. Ridacchia quando dice tempo. Sono molto comune in realtà da Peira in tempi moderni. Prendo. Non vedo nessun sacerdote, penso che possano essere riconoscibili. Qua siamo completamente da soli. E Miff intanto si avvia verso la statua. La signora ti segue a ruota, anzi proprio al tuo fianco. Miff va bene. E lei, signorina Oraclanum, giusto? Sì. C'è qualcuno in particolare? E dovevo parlare anch'io col sacerdote, ma più che altro mi hanno detto che avrei trovato qualcosa di interessante qua. Si sta guardando intorno, proprio un po' ovunque, alla ricerca di qualcosa di fuori posto. Vedrò di chiamarlo allora. Mi avvicino a una delle porte, sì, una a caso, e chiedo... Janic, se vuoi che muoviamo il culo nel caso dobbiamo far giocare anche gli altri. Esatto, perché sono le 10. Perfetto, chiamo Eddie. Che sennò poi si va troppo tardi. Non riesco a parlare. Non va bene. Hello. Hello. Allora, mi viene più comodo se uscite voi due dal canale per non spostare il bot, che non so se esplode. C'è la carrozza o andate in AFK, come volete. Appena abbiamo finito scrivo sul gruppo. Io mi muto, vado a fare i piatti. Perfetto. Beh, mi muto anche io a sto punto, ragazzi. Ok. Eddie, ci sei? Non ti sento, non sento quello che stai dicendo. Accendo la maglietta, dammi un secondo. Ah, vabbè, okay. Che cazzo. Vabbè. Dopo. Dopo. Ok, dovresti sentirmi meglio. Sì, ti sento meglio, infatti. Allora, devo cambiare la playlist, perché tu, come avrai intuito, hai una playlist diversa. Cosa succede, papino? No, papicciolo, meglio. Oh, cazzo, ho sbagliato bot. No, dai, però. Neanche a far così. Fammi un attimo. Dio, non va più. Ti streamo Spotify, facciamo prima. Va bene. Perché tutto sto casino per nulla. Sì. Ma lo sapevo che si sarebbe spaccato, per quello gliel'ho chiesto, però nel cambiare canzone. Ah, tra l'altro sai cosa? Guarda. Sì, sì, va benissimo così. Perfetto. Perfetto. Mezzanotte. Sto streamando la cosa giusta? Sì, sì. Sì. Ok. Ti faccio un quickissimo recap. Nell'ultima sessione avete scoperto tutti i casini eccetera e siete nel sottoscala di un negozio, di un bar di Oclica. Prometea ha un passaggio per andare da un'altra parte, vi ha detto che vi farà andare, è una spesa importante di mana, quindi non può farvi andare tutti insieme, ma farà del suo meglio. Avete estratto a sorte chi parte per primo, chi per secondo, eccetera, e è venuto fuori che tu sarai il primo e Lieto il secondo, poi ci saranno Naya, Ivan e Thea saranno gli ultimi due e gli altri in mezzo in un qualche ordine, non è così importante. Ti hanno estratto a sorte, quindi tac, te la accolli. Skippiamo tutte le interazioni e andiamo direttamente alla parte in cui tu apri la porta. La porta, quella se ti ricordi, annegata nelle muffe, nei funghi. Sì, me la ricordo. Perfetto. E aprendosi vedi che è completamente buio e devi entrare dentro. Lo fai? Sì, mi perfetto. Guardo un attimo indietro spaventato, insomma un po' titubante però... Insomma, lo fa Thea, mi fido, entro. Perfetto. L'interno sarebbe pitch black e ha un odore di sottobosco, quel odore virente, forte. E sarebbe completamente buio, però invece sono presenti dei funghi bioluminescenti ai lati di questo corridoio che stai attraversando. Non vedi niente, quindi realisticamente tu non vedi se ci sono delle pareti e tendendo le braccia non senti nulla. È solo un percorso segnalato dai funghi. Li seguo allora. Ok. I tuoi passi rimbombano in quest'area e alle tue spalle si è già chiusa la porta immediatamente. E dopo un minuto, in realtà non tantissimo, però essendo una situazione così strana ti sembra che duri per sempre questo breve passaggio, arrivi a una porta. Aspetta, mi dai un secondo, Pianic? Sì? Perché non sento lo stream e devo capire per quale motivo non lo sento. Sto streamando la roba sbagliata, no? Ma no, è un problema mio, no, è un problema mio, però dal portale. Buonanotte. È che dal porco dio di dammi un attimo, vedo se mi riesco a collegare da tablet. C'ho un secondo, ma dopo. Sono riuscito a far partire il bot. Ok, perfetto, molto meglio. Vai, ben risolto. Ok. Perfetto. Vai. Ok, ci sono allora. Hai una porta davanti. Ok, direi che la apro. Il rumore è un cigolio come appunto se stessi aprendo una porta overgrown, piena di piante intorno, e le piante si strappano, comunque si muovono per far passare, più un fruscio che un cigolio. E quando hai aperto completamente la porta, è come se tu fossi scaraventato fuori e ti trovi in una stanza completamente buia, cioè proprio pitch black. I tuoi occhi non si sono minimamente abituati a questa cosa e quindi non vedi assolutamente niente. Hai i tuoi sensi invece sono heightened, diciamo, quindi il tuo olfatto funziona alla perfezione e senti chiaramente un odore forte, quasi pestilenziale, di muffa e di chiuso, di ambiente chiuso. Non c'è odore di polvere, non c'è altro odore, c'è quell'odore di frescume di muffa e basta. I suoni sono anche qua leggermente ovattati. Il pavimento su cui sei atterrato sembra una moquette, nel senso che è soffice, non è duro legno, duro terra. E a parte questo, full black. Vai, cosa vuoi fare? Ok, allora, immagino che Adone sia caduto battendo le mani a terra e la cosa gli rimpiange perché sotto ha la sensazione che ci sia altra muffa e quindi dice ma comunque cerca di coprirsi con il colletto della giacca o comunque in qualche modo la bocca, perché per quanto da un lato dico magari è muffa magica, porco dio, è comunque muffa, non gli fa piacere, che schifo. Quindi cerca di coprirsi come può e dopodiché domanda: il mio famiglio vede al buio, c'ha abilità? Puoi mandarlo in avanscoperta scoperta anche se non vede al buio. Sì, evoco il mio famiglio e gli dico di cercarmi una strada per uscire. Allora, il tuo famiglio intendiamo dire il primo coniglio, giusto? Esatto, il coniglio. Perfetto. Quando evochi il famiglio fa una specie di flash la magia in sé e quindi vedi per un istante l'outline, non vedi chiaramente, vedi l'outline della stanza e effettivamente è, non è squadrata, è un po' tondeggiante. Il coniglio non lo vedi, lo senti e senti che sta andando a tentoni cercando di premere qua e là e senti che a un certo punto il suo tap tap contro una parete diventa un tap top tap top, come se ci fossero uno scalino. Ok, allora mi seguo quella direzione. Ok, dopo due scalini c'è un'altra parete e al toccando, cioè io immagino che tu vada a tentoni, c'è una scala a pioni. Sì. Ok, a quel punto mi arrampico. Ok. Non sono tantissimi steps, però sono abbastanza da farti perdere il conto. Ok. E il coniglio ti sta precedendo. Le scale sono pulite o c'è muffa sempre? Tutto è coperto da questa specie di moquette. È completamente buio, quindi non hai idea di cosa sia. E come si cazzo si chiamano? Gli step della scala Pioli invece sembrano puliti, sembrano di legno. Ok, sì. Passo dopo passo arrivi fino in cima e prima di arrivarci senti il coniglio che inizia ad andare avanti, ti fa proprio da cane per i ciechi. Perfetto. E lo segui? Sì, seguo il coniglio, tanto non vedo, quindi se ci sono più alternative. Ok, sbatti la testa. L'entrata dove è andato il coniglio è alta un metro circa. E chiamo. Dovevo scegliere i nomi dei miei conigli, porco dio. A questo punto Adone e il coniglio e dice: Schwarz, vieni ad aiutarmi. Aiutami a aprire qualsiasi questa cosa, e con una mano cerco di spingere, cioè c'è qualcosa che mi copre o è solo proprio il buco? L'apertura dopo la scala è larga, è alta un metro, quindi vuol dire che è così, devi o passarci. Ah, ok, crawling. Ok, sì, cerco di... Ok, anche qua la cosa è esasperante quanto sia lunga il passaggio, più che altro perché essendo tutto buio, tutto strano, qua diventa meno morbido, però c'è comunque una sensazione poco piacevole, l'odore è pestilenziale e ogni tanto tocchi sui lati, il coniglio tocca sui lati se non vuoi farlo tu, e sente che il corridoio è dritto e dura anche qua per 40 metri, cioè proprio una cosa aberrante, lunghissima, finché non arriva a un dead end. Provo a toccare con le mani il dead end. Ok, sembra essere una piastra di legno. Cava, cioè dietro c'è qualcosa. Cioè fa pao. Ok. Sono un attimo. Allora cerco di sfondare la parete. Come? Sì, va benissimo, ma dimmi come. Ok, sì, cerco di dare delle spallate, cerco anche di farmi aiutare dal mio famiglio. Quanto hai zero di strength? Il tuo famiglio invece ha un po' di più, quindi il tuo coniglio è più forte di te. Infatti, che perché storia. Altrimenti utilizzavo overpower su di me per aumentarmi la forza. Ora facciamo un roll e vediamo se serve o no. Aspetta, perché è gatto che dobbiamo guardare, perché la scheda è la stessa. Giusto? Yes. Perfetto. No, di base ha più un cazzo anche il gatto. Vabbè. Sì, sì, avete più zero entrambi. Mi rolli un di 10 con vantaggio, cioè con un propizio. Sì, dammi un secondo. Allora adesso intanto mi collego, facciamo che te lo rollo a parte o vuoi aspettare un secondo che entro su Roll20? Ma tiralo anche il fisico se ce l'hai, non me ne frega un cazzo. Fai che. Guarda, te lo rollo fisico. Sì, tanto lo vedo. Un di 10. Sì, cioè due volte però un di 10. Cioè due di 10 tirali entrambi, allora. Prendiamo il più alto. Allora spero che si veda, dovrò tirarli due volte lo stesso. Allora il D10 è questo qua, giusto? Quello strano, questo, sì, esatto. Ok, ho fatto 8. Tira di nuovo. Ho fatto 5. Teniamo 8 più 0, 8 basta. Si sfalda, cioè si stacca, cade di sotto, la luce ti acceca perché avviene una luce fortissima, ma la cosa strana è che questa cosa su cui eri cede dopo che l'hai spinta e inizia a cadere fino a... non hai idea di cosa sia, sembra una canala dell'acqua, dell'aria, un sistema di aerazione o qualcosa del genere, che è collassato fino a scendere a 45 gradi, abbastanza da spingerti verso il basso, perché è slippery. Sì. E quindi tu e il coniglio rotolate fino in fondo a questa cosa qua, e hai un paio di secondi di stordimento, dopo i quali apri gli occhi, e io ti dico in ordine quello che vedi. Davanti a te vedi che questa roba qua era effettivamente tipo un asse portante di una chiesa. Ok, che è venuto giù. La chiesa in sé ha un'architettura... aspetta un attimo. Di epoca classica a Caias. Non so quanto sia afferrato Adone con questa roba, con la storia dell'arte. Non credo tantissimo in realtà. Quindi per Adone... L'architettura... metti average conoscenza, comunque è stato istruito, però... Ok. Sud del mondo. Cioè, Europa del Solveria meridionale. Per il resto è un po' difficile determinare i dettagli di questa roba qua. Le forme sono rudimentali. Aspetta, no, sto leggendo la parte sbagliata. Di epoca classica, diciamo. Con alcuni elementi riparati recente. Si vede, per esempio, che delle colonne hanno dei pezzi di colore diverso, simbolo che qualcuno ha messo il cemento moderno in una colonna antica. Sì, con forme squadrate funzionali. Se guardi verso l'alto, vedi che ci sono delle vetrate con colore dominante il giallo, però sono molto variopinte. Anche queste vetrate sembrano più moderne del resto della chiesa, quindi sono state aggiunte dopo. Se guardi a destra c'è l'entrata della chiesa. L'entrata ha una porta di legno molto alta. Tutta l'entrata della chiesa è molto moderna, cioè da dopo il 400 è stata fatta e con un'estetica coerente con quell'epoca lì. C'è un largo impiego di alchimia, si vede dal fatto che le forme sono perfette, mentre invece quando tu fai una statua a mano qualche imperfezione c'è, mentre queste con l'alchimia sono proprio perfette. Inoltre i materiali utilizzati sono moderni, vabbè, questo dettagli. Guardando a sinistra invece arriviamo alle cose interessanti, cioè dall'alto verso il basso c'è una cupola di epoca antichissima, si vede perché è fatta in modo estremamente rudimentale, mentre le cupole moderne sono quelle rinascimentali, quelle di Firenze, cioè che si reggono da sole. Questa qua è un cazzo, praticamente è una base circolare sorretta da quattro colonne e sopra la base ci sono dei cerchi concentrici smussati e quindi è una finta cupola. Al centro di questa, cioè sotto questa cupola, c'è una statua di bronzo ma con uno strato d'oro sopra. La statua rappresenta il dio Yelos, non so se il tuo cazzo di personaggio la sa sta cosa, ma vabbè. Ha nella mano sinistra una sfera, un globo, nella mano destra una fiaccola, un bastone che termina con una fiaccola, e per il resto è una statua greca, nel senso è proprio perfetto, ha delle figure, le forme sono perfette, è proprio l'archetipo di uomo perfetto. Ed è un giovane sbarbato, ha dei raggi intorno alla testa, quindi deve essere tipo qualche divinità del sole, se non l'aveva capito Adone. E si vede che è di bronzo perché in corrispondenza delle linee, diciamo, delle affossature, l'oro è venuto via e quindi si vede sotto, si vede che c'è del metallo sotto, del metallo meno figo dell'oro. Questa cosa non succede nei punti lisci, quindi tipo il petto è perfetto, la sfera è perfetta e la fronte è perfetta, però già tipo intorno agli occhi è scrostato. Ora, scendendo ancora, c'è la base che sostiene questa statua, che è di un legno vecchissimo, si vede perché è tutto mangiato dall'Eternity, è pieno di graffi, anche il materiale proprio il legno si vede che è vecchio, che è invecchiato. Intorno alla statua ci sono due donne, una alta circa 1,75 m, bionda, con abiti dei tuoi posti, cioè dell'impero, vestiti imperiali. L'altra donna molto bassa, capelli biondi, scura di pelle, alta 1,5 m, abiti del nord, diciamo. Tutti slacciati, tutti aperti e sta sudando, si vede chiaramente che sta sudando. In fondo a destra, nella chiesa, perché a questo punto dovresti aver capito che è una chiesa, c'è un uomo altissimo, più di 2,10 m, con un grosso cappotto e qualcosa sulla faccia, sembrano tipo delle escrescenze, delle croste bluastre. Indossa un cappello e ho finito la descrizione. Ora, chiamo gli altri o mi vuoi prima dire cosa vuoi fare? Perché siamo già riuniti. Perché sono loro? Mi spiace. Però Lieto deve ancora arrivare. Sì. Appunto, sì, chiamali perché devo fare la mia entrata in scena. Sì. E gliela racconto nel modo più funny possibile. Aspetta che Sara non leggerà mai questo. poi dove cazzo altro scriverglielo. Lo sapevo che era molto corta la tua parte. Se c'era anche Ika vi avrei fatto uscire insieme, però sarebbe cambiato un cazzo. Hello. Aspettiamo Sara. Sento ora ora. Era chiaramente molto più veloce la sua parte. E ci vuole più bene noi. No, non è vero. Perché mi odi? Beh, sarà, sarà. No, non l'ho spostata io, quindi okay. Ci sei? No, no, no, no, è per FK, mi ha spostato nel momento in cui mi sono seduta su questa sedia. Ecco, precisissimo. Ottimo, ci sono, ragazzi. Ok, quello che vi succede a voi due che siete appena tornati è che sentite prima un picchiettio, cioè prima tipo dei passi provenire da dietro il muro dove Nibel è andato a bussare, comunque a chiamare. Poi sentite un picchiettio in corrispondenza della parte alta della chiesa, in alto a destra, diciamo. Ora si gira, voi due se volete girare ditemelo, altrimenti no, come volete. Sì. Perfetto. E dopo sentite prima un colpo, tipo un tonfo, e poi un colpo molto più forte. Una piastra di legno si stacca dall'alto della chiesa, dal tetto della chiesa praticamente, e cade a terra con un rimbombo assurdo. E questa parte che era in alto, che era un asse, cioè sembrava proprio un blocco che reggeva la chiesa, inizia a inclinarsi e cadere, finché da questo tubo, a quanto pare tubo quadrato, viene partorito... Descrivilo tu. Un coniglio. Oh, un coniglio con le ali. E poi... Dopodiché, vedete, ruzzolare giù in maniera anche poco elegante, in un certo senso, un uomo che comunque cade così un po' di faccia davanti e poi si mette subito a gattoni. E vedete questo uomo con questa giacca elegante comunque, dai colori marroni sostanzialmente, l'intero suo abito comunque elegante è su quelle tonalità, marroni e verdi. Scusate un secondo che devo fare una cosa, ok, mi stava esplodendo il cellulare. E che appunto vi guarda con questi due occhi di colore diverso. Capelli lunghi che erano raccolti in una coda, ma che vedete sarà perché è caduto dal cielo, cioè si è fatto una caduta di non so quanti metri, è un po' tutto sfatto. Lo vedete che vi guarda con due occhi spalancati, sorpreso lui, anche lui, e potete notare che comunque è un po' sporco, nel senso, vedete che le mani sono indubbiamente sporche, non capite se terra, sporcizia, boh. Però comunque è ordinato in un certo senso, non è bizzarra come visione. E adesso, Master, se puoi mandare la foto del mio personaggio, che ce l'hai portata di mano. Non ce l'ho portata di mano, se me la mandi su Telegram la mando subito. A parte che ci dovrebbe essere in Fateless. C'è in Fateless, quindi copia e incolla. Sì, scusatemi, che da cellulare sono... Sì, non ti preoccupare. Vai, ce l'abbiamo. Nostro Victorian Age Twink. Esatto, ce ne abbiamo tutti. Sì. Eccoci qua. Se nessuno di voi due reagisce la bionda. Ah, ok, finita la descrizione, non l'avevo capito. Sì, sì, sì. Sì, vedete che ha una borsa con sé, però... quelle sono, insomma, notate che ha appunto questi due occhi di colore diverso e una ciocca di capelli bianchi. C'è un coniglietto che si sta pulendo tutto da là. Sì, esatto. Domanda, dov'è che è caduto? Al centro della chiesa. Al centro della chiesa, ottimo, siete, perfetto. Cioè... queste molto vicine alla statua e Nibel invece in un angolo praticamente, quindi relativamente lontano da voi. Sì, io però sono caduto di fronte alle due donne, giusto? Sì. sembra che si è alzato e ha visto. Cioè, mi fosse balzato un attimo, poi pensa tra sé se non è la cosa più strana che mi sia capitata, e ti porge una mano e ti fa: stai bene? Vedi che quest'uomo si alza senza accettare la tua mano e fa: sì, certo, sto bene, vieni. E raccoglie il suo coniglio e se lo prende su in braccio. Ma adesso smettila di menarti, mannaggia. Sta cercando di volare. Allora lo lascio volare, poverino. Mancano ancora un paio di livelli per farlo volare. Grazie, scusate per il disturbo. E a questo punto Adone gira e fa per andarsene. Aspetta, Adone si gira tipo: sì? Sono una dottoressa, se ti sei fatto male ti posso guarire? Io qua sto per chiedere una cosa. I medikit hanno finito di funzionare ovunque. I medikit funzionano con la meraviglia, non so di cosa stai parlando. Cosa cazzo è sta cosa che è partita in chat? Il dubstep, madonna. No. Manco a far così però. Allora, a quel punto Adone dice: no, beh, credo che ci sia un medikit qui da qualche parte da poter usare, no? No, devo chiudere il bot e farlo ripartire. Sì, c'è un medikit, in effetti, come in tutte le cazzo di chiese, gratuitamente disponibile per tutti. Mm-hmm. Mi fa ancora... Sei sicuro di stare bene? Cioè, vedi che... assottiglia un po' gli occhi, poi guarda in alto, calcola la caduta, poi ti guarda di nuovo. 4 metri. Però, 4, cioè, 4 non metri. Mi fa, nel senso, 4 metri rotolando. Okay. Ok. Cioè, l'affare è sceso giù e quindi ha fatto uno scivolo di 4 metri. Ok. Sì, sei carino il coniglio, comunque. Sul serio, tutto a posto? Ti vedo preso male. No, io sto benissimo, grazie. Sì, lo vedo. Dice, però non, scusate, non volevo disturbare la vostra chiacchierata. Si gira un attimo, quante ci sono persone attorno, no, a parte loro? No, sono loro tre. Però... dice, Quando senti dei pesanti passi che rimbombano in tutta la chiesa, e Nibel si sta avvicinando al centro della chiesa per vedere cosa è successo, da dove arrivava il suono. Ok. E vedi in lontananza questo uomo alto 2,13 metri, tipo, con le spalle larghissime, giacca pesante, cappellino in testa, capelli quello rosso rame che scendono sulla schiena, e la cosa più curiosa che noti è la metà destra del volto è completamente a puttana, cioè come se fosse bruciata, però non ha il colore nero della bruciatura, è bluastra e ha dei fondi bioluminescenti sullo zigomo, e si avvicina con la voce bassa al bombante, dice: tutto a posto? Okay. È piovuto dal cielo. Mi indica, cioè fa, come per dire, you see? Guardo su, guardo avanti, guardo voi, dico: questo non è normale nella città, capito? Sì, non è normale. Adone si ritrova in questo sandwich fra da una parte le due donne, dall'altra parte l'uomo, e si sente un po', come si dire, si c'è ingabbiato, quindi stava per girarsi, vede l'uomo, fa due passi indietro e dice: sì, non era previsto questo, però non... dov'è il medikit? A uno dei lati della chiesa, sulla sinistra. Vado, domanda da Bianis, mi sono fatto male effettivamente, sto provando, no, dolore? Non si è fatto niente. infatti, e dice: vado al medikit. E inizia lentamente a fare qualche fast. Sentite che si apre la porta dove Nibel non è riuscito a bussare effettivamente prima, e arriva un uomo che ora vi descrivo e poi vi dico cosa fa. Seguiamo un ordine sensato. Ok, pelato, dallo sguardo... Avete presente X-Files? Non l'ho mai visto. Sì, cazzo, neanche io. Allora niente, questo sarà tutto nuovo per voi. Ok, ci sta. Pelato, ha degli occhi... Possibile sta cosa? Sì, in realtà, però vabbè. Ha una leggerissima barba, proprio appena accennata, cioè come se stamattina non si fosse fatto la barba. Indossa gli abiti tradizionali dei sacerdoti di Yelos alla moda orientale, cioè non sono abiti del posto, sono abiti azmei dell'Oriente, con il simbolo di Yelos, che è un cerchio con tutti i raggi intorno, una versione stilizzata del sole. Per il resto ha le feature tipiche di una persona dell'impero, quindi pelle chiara, occhi chiari. Sto guardando se c'è qualcos'altro. Ok, lo sentite che spalanca la porta e urla: porco Yelos, ma vi sembra il modo di fare? È comunque una chiesa questa. Biff indica il signore che è caduto dalle travi, tipo, della serie: non prendertela con me. Adone, no, ho spoilerato il nome, cazzo, porco Dio. Vabbè. Vabbè. Tomas for not spoiler. Vabbè, l'uomo si sente chiamato in causa e dice: no, ma avete ragione, guardate, io me ne stavo proprio per andare a dire il vero. Poi si guarda un attimo in giro e realizza che manca qualcuno all'appello, quindi è tipo... tipo sei persone. Pensa. Esatto, quindi dice: però sì, no, scusate il disturbo. L'uomo si avvicina scocciatissimo, guarda l'affare che hai distrutto effettivamente. Forse ti guarda, io. Cioè guarda quello, guarda te, guarda quello, guarda te. Come hai fatto? Ci penso un attimo e poi dice: è che, vedete, sono uno studioso e un mio collega ha cercato di utilizzare una magia di teletrasporto e mi sa che non è andata proprio come doveva andare. L'uomo... Is this bullshit? L'uomo ti prende per il collotto, è più alto di te di poco? Io sono alto 1,76 m. Ah, sì, siete alti uguali, cioè ti prende... Ti scuote un pochino e dice: un tuo collega? Sì, in verità dovrebbero esserci anche delle altre persone qui con me. Ti lascia andare e dice: la chiesa di Yelos non è molto frequentata e specialmente non da studiosi. Non capisco perché vi siate radunati qua. E guarda male in particolare Nibel. Non capisco perché vi siete riadunati qua oggi, ma vi chiederei di dire cosa volete fare e poi andarvene, per favore. Avete fatto già danni a sufficienza. Avete? Ti riguardi. Dovete concordare che è strano che una chiesa non visitata da nessuno viene visitata da quattro persone e una sola di queste ha fatto dei danni. Il mio personaggio ripensa un po' alle casualità che sta avendo in queste settimane della sua vita e dopodiché dice: beh, porco Dio, sto per dire una cagata astronomica. Vai. No, non la dico. Madonna, non è paura. Dice: ma è stato il fato a portarci qua. Chiesa sbagliata. Che mi ha sbagliato. No, ma infatti non dice sta cagata, Adone, dice: Beh, sì, effettivamente non doveva andare così il nostro teletrasporto. Credo che appena capirò dove sono finiti i miei colleghi, ce ne andremo subito. Quindi vi vuoi non dire vogliamo che disturbare altre troppo. Persone sono sul tetto della chiesa? Vedi che Adore ci pensa. Vabbè, porco Dio, ormai è il nome. Guarda un attimo il buco da cui è stato partorito sostanzialmente e dice credo di sì, a dire il vero. Non, cioè, e vedi che continua a guardare un attimo, poi prende un attimo il coniglio e dice potrei mandare il coniglio, però non vola, Dio cane. Quindi poi riguarda te e dice sì, dovrebbero esserci delle altre persone. Un attimo. Anche ho bisogno di un secondo. Ok, ci sono. Ripetimi l'ultima cosa. Il coniglio non vola, porco Dio. No, quella non l'ha detto Adone. Quella non l'ha detto. Scusa. Non l'ha detta quella cagata. Peccato. Potrei diventare il mio personaggio preferito in campagna. Vabbè, se devo fare questo, allora lo faccio. No, scherzo. Vedi che appunto Adone guarda su, poi guarda proprio coniglio, vedi che ha questo pensiero ed è tipo Poi riguarda te e dice dovrebbero esserci anche i miei colleghi, ma spero siano sul tetto della chiesa a questo punto, o nel tetto. Facciamo che non mi domanderò, non mi farò questa domanda, e in realtà io è qui per qualche motivo e si è semplicemente materializzato qua. Beh, e come ho spiegato prima, noi stavamo facendo, diciamo, un esperimento tra colleghi e il luogo di teletrasporto non doveva essere proprio qui. Oh mio Dio, un moscerino, vaffanculo. Dato. No, non dice sta cagata. La bionda ti interrompe e dice: le magie di teletrasporto sono estremamente care e difficili da realizzare. Il tuo accento è quello dell'impero. Devo dedurre che fai parte dell'esercito? Porco Dio. Tipo Biff che guarda la signora e fa: ma lo hai visto? Credi che l'esercito non abbia persone fra le sue fila che non danno nell'occhio? Ah sì, perché insomma avere due occhi di colore diverso, i capelli in quel modo, cadere dal cielo, un coniglio con le ali sia una persona normale. La signora prende il coniglio, se glielo lasci fare. No, che cazzo vuole? Chi la conosce? No, che non le lascio. Allora lo indica soltanto, vedendo che non hai voglia di partecipare in questa cosa, e dice: quelli sono i risultati di magia naturale. Si studiano in varie parti del mondo, a Chairoma, qua, ad Apeira e a Falchena. Dal suo accento non è né di Chairoma né di Apeira. Non pensavo di ritrovarmi un'esperta di linguistica, cioè di lingue davanti a me. Anzi, di idiomi. Adone userebbe il termine idiomi. No, vabbè! Scusa. Era solo un'osservazione. Tra l'altro stiamo parlando in modo che Nibel non capisce, perché stiamo parlando nella lingua di scambio, quindi Nibel capisce una parola su quattro. Oh mio Dio! Biff guarda Nibel e fa: ok, stiamo chiarendo un attimo perché questo qui... stiamo chiarendo se stia bene o meno, ok? Mettiamola così. Adone non sa se sentirsi offeso o meno da quello che hanno sta parlando entrambe le persone. Non lo dico a te, è un appunto che sto facendo io. Così. Nibel sta bevendo dalla tua scherza, nel frattempo. Sai cosa? C'hai ragione. Ma che buono, sì. E mi giro verso il sacerdote, tiro fuori la pipa e dico: posso accendere qua dentro? Ma certo! Accendo la mia pipa. Stai scherzando? Che non mia... sopra fare la stessa cosa. Passo la fiaschetta al sacerdote. Sì, sì, sì, volentieri. Questo regge, questo è proprio a casa sua. Cioè... ti sa dire l'annata. Sì, sì, sì. Alcol etilico del 1400. Esatto. La donna bionda, che ormai ti sta facendo un interrogatorio, dice: posso sapere il tuo nome? Dammi un secondo. Non ti ricordi il cognome? No, no, no. Ah. Sì, no, no. Scusami, per un attimo ho detto qual è. No, no, no. Adone vi risponde, e però Bianici, qual è Richard è di Falchena come nome? O devo dire Richard? Qual è l'equivalente tedesco? Richard. Ok. Mi guarda un attimo e dice: Richard Kaltenfeuer. Non mi dice nulla. Hai un'espressione particolare mentre lo dici? Ah, vuoi fare vedere se sta mentendo? Bello, vai, rolla. Allora, io te l'ho detto, io te l'ho detto con la naturalezza. Ok, no, sì. No, allora, quello è giustissimo. Io te l'ho detto con la naturalezza con cui te l'ho detto. Poi, okay. Cioè, se dobbiamo fare roll, per me va benissimo. Rolla MIF con più 2. Devi fare... ok. 4... allora, 11 più 2. Sì. Ok. 4 più. Wow. Ci credi? Ci credo. Certo, questo c'ha proprio la faccia da Richard. C'ha proprio la faccia da Richard. Ah. Ok. Piacere di conoscerti, Richard. Ti porge la mano e si presenta e fa: sono Miff. Piacere, Miff. Chiedendo di quel nome. Il nome... mi dice qualcosa? Smith, cioè... è un cazzo. Il cognome è Standout, mi rolli un di 10 anche tu. Su storia. Ho fatto 1. Hai più 4, 5, non basta. Boh, è un nome. Viene dal nord. Io ho una domanda, Bianic. Tecnicamente Naya non aveva parlato di Myth ad Adone? Secondo me no. Se, se ne ha parlato, non ha menzionato il nome. Ah, ok. Ho un'amica che... Infatti, perché... sai che mi viene anche che... a me il dubbio che ha detto è un'amica che... Sì, sì, sì, non ha mai detto il nome. Name drop mai fatto, altrimenti me lo sarei segnato. No, no, no. Ok, perché mi ricordavo ne aveste parlato, ma sì, non, sì, sì, non ero sicura se fosse stato menzionato. Beh, sei un ricercatore, hai detto. Cosa ricerchi? Allora, Adone dice: sono un ricercatore. Dio, che cazzo fa Adone nella vita ogni volta? Ma vuoi dire la verità adesso? Stavolta dice la verità, okay. Perché su questo non ha senso mentire. Dice: sono un ricercatore di... nasco come ricercatore di magia naturale, però adesso studio un po' semantica. Ah, interessante. Vedi che sta guardando infatti il coniglietto con curiosità. Posso toccarlo? Accarezzarlo? Sospira e te lo porge e poi dice: se volete accarezzatelo a questo punto. Myth, la vedi che si avvicina insomma lentamente e alla fine in realtà con un ditino gli accarezza al sopra della testa, appena sopra gli occhietti. Se gli dà fastidio lo lascia, cioè nel senso molto rispettoso. E gli piace. Se lo lascia andare lui cerca di volare, ma non sa volare, quindi vola a terra, cioè proprio cade in picchiata. No, lo lascia andare. No, era per dire. Oh mio Dio. E fa, a questo punto lo poggio per terra, anzi. È molto curioso, sai fare dell'altro? E Adone ti senti un po' stizzito da sta qua che arriva e gli fa domande del suo lavoro, delle sue capacità. E puoi sempre dire di no. non è orgoglioso, che cazzo, c'ha il suo orgoglio di voce. Certo. E a questo punto, tipo, allora, non casto l'intera spell, ma tipo tira fuori la mano e mostra tipo della corteccia che gli si inizia a formare sulle mani, sostanzialmente sarebbe lo spell you. Ok, sì. E poi altre abilità che credo che, e poi vedi che lo ritira e dice altre abilità che non credo sia il contesto giusto per mostrarle. Sì, capisco perfettamente cosa intende. Molto, molto interessante in realtà. Anche lei è una studiosa ricercatrice, anche voi? Lei si gira verso sia l'altra donna che non si è presentata, tra l'altro, quindi a questo punto... Ora fare... Ok, porro con la mano Richard Kaltenfeuer e poi mi giro anche verso l'altra persona e faccio piacere. Sì, io ti porgo la mano sinistra. Suppongo che da quello che ho capito dalla lingua mi sta chiedendo, sta presentando e... sì le intenzioni sono abbastanza chiare, cioè non è che non capisci nulla, è che se iniziano a parlare in maniera un po' più complessa o veloce non li segui. Dico Nibel, mi chiamo Nibel. Poi tra l'altro Adone parla benissimo la tua lingua volendo, cioè stiamo facendo questa cosa infame di parlare un'altra lingua, però sono tutti capaci di parlare. Domanda, che lingua stiamo parlando? Adesso quella dell'impero. Esatto. Poi se vuoi facciamo la... No, credo di averlo capito, che lingua stanno parlando mi fa libero. La lingua di Akaias. Esatto. Che io non so, però... Okay. No, la sai, sì sì. Ah, ok. La parli con un accento marcato... tipo totesco, però la parte. Bellissimo. Che poi stavo per dire, se volete raga parliamo in tedesco noi tre e poi quando parliamo con Os parliamo italiano. No, non mi sembra un'idea intelligente, ti dico la verità. E vabbè, comunque dice appunto ti chiede, anche lei è una studiosa? Sì, sono qua in realtà per curiosità personale. Mi piacciono le stregonerie e le teurgie, mettiamola così. Oh, mamma mia. I know why. Capisco, sono degli argomenti indubbiamente affascinanti, soprattutto la teurgia. Sì, ti dà alcune capacità molto interessanti. E vedi che... Perdonami. Sulla borsa. No, chiedo a Bianic. La cosa che faceva Nai era teurgia? Sì. No? Sì. E vedi che allora appunto Adone dice... A dir la verità... uno dei miei colleghi, e vedi che guarda in su, dovrebbe essere un esperto di teurgia, però non sta apparendo. Dal tubo esce però... fuori sai quelle cose di paglia dell'esperto. Ah, davvero? Un esperto? Posso chiedere come si chiama? Magari lo conosco, magari ho letto qualcosa. Allora, io qua posso fare due cose: o ruolare Adone o cercare di portare un po' avanti la storia. Ruolare Adone. Io voglio fare il name drop. Oh, cacciano lì. Allora, vedi che vedi che Adone fa per rispondere, poi dice poi effettivamente non gli viene in mente il nome, dice è un fa pietre di cognome. Visto ci mette un attimo, tipo vedi il cricchettino che caricano, il coniglietto esatto. E fa quale dei tanti Miff conosce soltanto un Petri in teurgia, tecnicamente. Per Nibel, la famiglia Petri è una famiglia famosissima perché sono tipo la famiglia dei papi, quindi non, ora non contano più un cazzo perché non esiste più una struttura religiosa rigorosa, però per secoli sono stati i papi, era una discendenza quasi diretta e avevano in mano la Santa Chiesa. Si sono diffusi un po' in tutto il mondo e quindi i Petri sono comunque ancora oggi un po' ovunque, cioè hanno le mani pasta dappertutto. È facilissimo trovare qualcuno della famiglia che lavori come teurgo, come taumaturgo o roba del genere. Fine del... Credo sia conoscenza generale. Sì, sì, è proprio cultura generale. Petri è un cognome relativamente famoso. E tra l'altro sono di Lonera, che è la capitale del tuo regno, quindi... Sì. Ci sta che tu conosca anche qualche Petri, cioè non è una roba strana. Magari non bene, ma di vista, di nome. Il che, allora, Pianic, qua io ti chiedo, non penso che mi riesca a fare lo scalino, cioè nel senso, ce ne sono veramente tantissimi di Petri. Lei sì. Adesso ne conosce due, ok? Però gli hai chiesto come si chiama. Qual è? Ah, ok, sì. Grazie, Vianis. Già. E mi fa, ah beh, insomma, la famiglia Petri è famosa per gli studi di teurgia. Ne ho avuto modo di conoscere due. Individui molto particolari, devo dire. Chi, se posso chiedere? Ah... Il nipote e la zia, mettiamola così, si chiama Daya e l'altra Promezia. Daya Petri, conosci? E ti guarda e fa, sì, Daya Petri. È il cosiddetto collega che dovrebbe arrivare e guarda un attimo su nel cielo. E che Mif, vedi che porge le mani un attimo avanti, poi si ritrae perché effettivamente non è educato toccare un'altra persona e fa: è vivo? Sta bene? Spero. E continua a guardare su. L'ultima volta che mi ha scritto stava entrando in una centrale, poi non ho avuto più modo di contattarlo, mi sono preoccupata e poi ho visto i giornali e, cioè, veramente, sta bene sul serio? Credo che io e lui abbiamo bisogno di un recap di quello che state dicendo. Appena parlato di centrale, sì. Tra l'altro mi seguo un attimo. A questo punto era con voi? Era con te? Forse? Anche Mif dice no, quando me la racconti giusta. Adesso mi dici forse, prima mi dici che è un tuo collega. Parliamoci chiaro, sì. Qua non ho intenti malvagi, è un mio caro amico. Ci conosciamo da veramente tanti anni. Io mi guardo un attimo attorno, però ormai il gatto è fuori dal sacco, come si suol dire. E a questo punto dice: sì, era con me. Appunto, ci stavamo postando assieme e abbiamo appunto fatto un esperimento con un teletrasporto, ma sì. Fino a prima che io mi teletrasportassi stava bene, era sano. Questo bene. Mi fa piacere, grazie che me lo ha riferito. No, nessun problema, anzi mi fa piacere aver incontrato un'amica di Naya, anzi sono sicuro che anche lui sarà felice di rivederti. Sì, speriamo bene, ho un sacco di robe da raccontargli. E guarda, ti guardo con confusione, credo anche lui a te. Ah, però, bene, sì. Io ho una domanda, Vianish. Vai. Quanto dobbiamo tenere su questo teatrino prima che arrivi lieto? Oh, mi ha detto che sta rientrando ora. Lieto. Quindi quanto ci metti? Però, cioè, io ti dico di andare avanti fregandotene. Cioè, quando vuoi fare qualcos'altro, facciamo qualcos'altro. Quando uno di voi vuole fare qualcos'altro, facciamo qualcos'altro. Sì. Io vorrei dire una roba, in realtà. Vai. Mi dispiace interrompervi, ma... Richard, giusto? Sì. Per caso lavori in una centrale? No. Ne sai qualcosa? Conosci l'ambiente? No. Mi sta dicendo perché... cazzate. Vedi che Mirk... infatti. Se posso, sì. Perché... Domanda, la faccia di Miff lo può aiutare? La faccia? Per il semplice fatto che... Oddio, non mi ricordo se... Ah, devo leggermi le lettere. No, cancella. Non mi ricordo se aveva nominato altre persone nelle lettere, Naya. Tipo se era con gente. Tu hai meno due, per mentire, Nicole. Per mentire o no? Capire se sta mentendo. Sì, sì, perché lui ha più qua. No, lui ha più 2, tu più 0, quindi è meno 2 totale. Ok. E quando dico le bugie. This fucking guy is lying. Wow. Rolla di nuovo. No, no, ha fatto il bello che esplode. Ha fatto 10? No, ha fatto 10 più 4, quindi più 3 perché... È scoppiato il dado. Sì. 13... La formula che rolla automaticamente con lo scopo. 13 meno 2 perché era il malus, sono 11. Ha superato ampiamente il test e quindi sai che sta mentendo sulla parte di quando ha detto no, non lavoro con le centrali. Dai, non l'ho detto così. Vedi visibilmente la faccia di Nibel che cambia nel momento in cui capisce che non sta dicendo del tutto la verità, diventa molto più cupa e e ti dice, anzi cambio direttamente soggetto e parlo con me e dico: possiamo fidarci a discutere qui? Biff si guarda intorno, guarda la tizia e il tizio, la tipa che non mi ricordo il nome, Ora. La dottoressa, Ora, e il tizio che è ancora lì, il sacerdote che se la sta bevendo. Lei, visto che cioè, state parlando ma lei è presente, si mette nel discorso e aggiunge: io sono in fuga dall'esercito dell'impero. Quindi, sì, potete parlare di quello che volete. In che senso? E si gira verso Ora, appunto. Lavoravo alla centrale... Sì, buona. Lavoravo alla cattedrale di Oclica e hanno tentato di ammazzarmi. Cioè, lavoravo alla cattedrale di Tilia, sono andata a lavorare per un paio di giorni alla cattedrale di Oclica e hanno tentato di ammazzarmi. Quindi sono scappata qua. Chi ha tentato di ammazzarti? Non ne ho idea. Uno. E soprattutto è successo tot giorni fa, gli dice la data prima... giusta di quando. Sì, prima dell'attentato. Non so se c'era già qualche terrorista, qualche idea del genere, però erano chiaramente uomini dell'esercito e uno sono riuscito a ucciderlo, però ce n'erano molti altri e sono scappata prima che mi facessero la pelle. Comunque non ho mana infinito. Perché non andiamo in un luogo più appartato? Io in realtà sono qui perché devo fare delle ricerche. Il ma vescovo... se volete possiamo posticipare. Il vescovo si siede sulla panca, schiocca le dita facendo chiudere le porte della chiesa e dice: questo è un luogo sacro e sicuro. Potete fare quello che volete. Yelos non vi tradirà. Che divinità è Yelos? Il dio del sole. Ok. Biff, che pensa? Vai, vai Yelos. Lo ringrazio, sacerdote. Sono sicuro che Yelos farà scendere la sua luce su tutte le menzogne che si trovano qui dentro. Era più una metafora la mia. Credere nelle divinità è sciocco ormai. Mi fa fare un'espressione strana. Dice, ma lei non è un vescovo, cioè un prete, scusami. Sì, e a quanto pare non serve minimamente credere in una religione per farlo. Sono fondamentalmente un medico e un insegnante per i bambini orfani del Kainoe, che vedendo che tu non capisci di cosa sta parlando aggiunge il quartiere in cui ci troviamo. Grazie. Beh, di cosa volevi parlare? Ah, mi sfuggono i nomi, ragazzi, non mi ricordo. Nibel, grazie per dire il mio. È un altro personaggio quello. Appare Niob. E va. Quali sono le tue perplessità, Nibel? E intanto vedi che Miff scannerizza un po' il luogo per capire che cazzo deve trovare per il dio del tempo nel coso del dio. Esatto, sì. They don't know. Pardon? No, non lo dici ad alta voce, cioè sono io, Sara, che ti sto chiedendo. Per questo sono io, Eddie, che reagisce. Watch me. Rispondo a Miff, dico, diciamo che sono arrivato ad un punto della mia vita dove non ho niente da perdere e sono disposto a tutto per trovare alcune informazioni, coprire un po' la verità, diciamo questo. Vorrei capire un po' di più su come funzionano le centrali, su come opera. Beh, un vecchio mi disse che se persegui il percorso della verità bisogna essere pronti a lasciarci la pelle, quindi se non hai niente da perdere è buon per te. Ricard ha questa espressione in faccia. Tutto quello che ci sta dicendo. Metto giù lo zaino pesante, lo butto a terra e dico: perderò la vita è un problema, ho già accettato la fine già da tempo. E mi tolgo la giacca, scopro, cioè, ho la magliettina sotto e vedi il braccio destro, la maglietta è a maniche corte, vedi il braccio destro che come il volto è completamente blu e grigio, martoriato e pieno di escrescenze simili a funghi fluorescenti. Domanda, io cosa ti passo l'altra picca. Sì, quella la lascio. È single? Scusate. Tu no. Io no, da. Stavo per dire non lo sai, che non voglio fare. Ti cancello l'immagine per il momento perché Ika non c'è ancora. Ok. Cioè, la rimettiamo dopo. Sì. Ma dove l'ho mandato? A dove? L'hai messa nel gruppo di Faithful, dove c'è anche Ika che... Sono un deficiente. Ti preoccupare, non ti preoccupare. Richard vorrebbe analizzare quello che è il corpo di quell'uomo e capire che cazzo c'ha addosso. Di 10... E qua è arcano, quindi hai un plus 6 tutto bello pulito. Ho fatto 10. Sì, no, aspetta, sul dado? Ritiro? Sì, tirare un altro. 7. 16 più 6, 22. Hai un'idea molto chiara di quello che è successo. Per un motivo molto semplice. Hai qualcuno in famiglia che studia questo genere di cose. Solo che non l'avevi mai visto sugli esseri umani. Infatti. E what the fuck? Devo entrare nel dettaglio o... Ti basta quello che ti ho detto? Ma ho capito, però aspetta un secondo. Dimmi te. Quindi un secondo, magari. Se... Sì, dammi un secondo che lo scrivo. Adone fa un passo in avanti e sta chiaramente osservando il tuo corpo, non con fare stranito, ma più quasi appunto da studioso, ti sta osservando quasi anche meravigliato in un certo senso. Però poi vedi che nel suo sguardo c'è comunque molta preoccupazione e dice... E, tra l'altro io mi sono perso un attimo il discorso che hai fatto prima di toglierti la giacca. Cos'è che hai detto esattamente? Ho detto semplicemente che non ho paura dei ricchi per cercare quello che voglio sapere sostanzialmente, che è legato ok. Alla centrale. Certo. E a questo punto appunto Richard dice: ti è successo in una centrale? Non esattamente, ma il risultato è sempre quello, diciamo in prossimità. Intanto vedete che Miff tira timidamente fuori un taccuino, lo apre e inizia a scrivere, no? Riccardo si gira un attimo verso di te e ti dice: così sfacciatamente? Dovrei nascondermi? No, è solo un'osservazione. E poi chi ti ha detto che sta scrivendo di questo? Ora aggiunge, tanto che loro parlano, e immagino che i medikit non funzionino. Immagina bene. Neanche sulla parte estetica, cioè non rimuovono nemmeno lo strato superiore. Hanno aiutato un po', ma poi ho smesso. Era inutile. Ho capito. Affascinante, non avevo mai visto niente del genere. Tira fuori un manapenny, la signora, e glielo mette a fianco e dice: sì, il colore è lo stesso, e lo rimette. Guardate pure quanto volete, tanto sono abituato. Quanto? Sono abituato. Beh, io a dir la verità, la sua lingua la parlo. Poi si gira verso gli altri, come dire, voi. Miff annuisce mentre sta continuando a scrivere. E dà un'occhiata alla palla gigantesca che tiene la statua. Scusami, mi giro verso ora e lei parla la lingua di Akaies? Sì, facciamo. Era un ok. Non ho capito. Ah, ok, vabbè, allora parlo in modo chiaro che possa capire anche Nibel, ovviamente. E a questo punto dice: non so bene come, per quale motivo, cioè, mi sembra veramente un caso fortunato che ci siamo ritrovati qua oggi tutti assieme, però mi sembra di capire che abbiamo tutti un po' a che fare con le centrali in un modo o nell'altro. Sembrerebbe di sì, diciamo che... Io mi giro verso Miff. Ok, vabbè. Qualcuno prima di arrivare qua su un treno mi ha parlato di destino, di fato, che avrà incontrato qualcuno. Sembra che avesse ragione. Qua Biff fa un'espressione tipo cioè smette di scrivere, ti fa non che sia importante, però l'importante è il risultato, poi quali sono i metodi non importa. Certamente. Adone, vabbè, Richard, scusa, devo finire su sto campanile. Richard si gira verso di voi e dice: è partito col botto, e dice: scusate la domanda un po' bizzarra, ma conoscete qualcuno di nome Promezia? Dammi un attimo. Il nome non mi ricorda niente, a meno che il master non mi dica altrimenti. È un nome comunissimo da ste parti, cioè quindi una la conosci, però cioè, anche più di una, nessuna che sia rilevante per come dire, per te in particolare. Cioè qualche, che ne so, commerciante c'ha una figlia di nome Promezia, qualche professoressa non tua, però qualche insegnante di tua figlia si chiamava così, roba del genere. Sono varie persone, è un nome comune. Perché qualcuno in particolare? Non mi frega con quale delle tante. Beh, tu conosci sicuramente Promezia Petri. Sì, immagino. Beh, almeno una. Anche un'altra. Chi? Master. Dimmi. How do I do this? Dimmelo tu. How do you wanna do this? Sì, esatto. Miss fa, sì, la mia compagna. Capisco. Non è qua, insomma, sono io la pappa che viaggia, lei preferisce stare al fresco. Conoscendo le varie Promezie che conosco, è interessante. E lei che Promezie conosce? Scusami, adesso pensa, almeno sei. Almeno. Il coso, il sacerdote nella stessa situazione di Nibel, cioè qua è un nome comune, lui conosce tutta la gente del posto, quindi non fa testo. Me ne voglio il sacerdote. E ora? È tipo, non mi viene in mente granché. Conosco un sacco di gente. È una bugia? È più che, non so se è rilevante. Se si chiama esattamente così? Cognome di questa Promezia? Piscop. Non mi è familiare. Neanche a me. Beh, grazie per avermi risposto comunque. Come mai questa domanda particolare? Niente, che diciamo con Naya ci siamo resi conto che entrambi e qualche altra persona conoscevamo tutti una Promezia, conoscevamo tutti una Promezia e in alcuni casi era la stessa Promezia, il che Ticchi. Essendo qua tutti chi? Beh, io Naya e insomma e delle altre persone che erano con noi alla centrale. Dici che sia relazionato alle centrali stesse? No. No, è solo una di quelle cose che dici bizzarro. Una, due sono una casualità, tre ancora quando iniziano a essere sei persone. Inizia a essere un po' tanto. È vero, è vero. Soprattutto quando, beh, non sono di Acaies, quindi trovare persone della mia zona che si chiamano Promezia è una rarità. O almeno una particolarità. È vero, effettivamente. E volevo vedere se questa particolarità si confermava anche nel nostro gruppetto. Beh, a quanto pare forse solo a metà. In ogni caso, scusate, mi avvicino alla statua, se non è un problema per voi. Nessuno dice niente dei due NPC? No, prego. Grazie. C'è un'iscrizione, un qualcosa? Nulla. La statua è veramente molto vecchia. La palla che tieni in mano. Cioè, quanto è grande effettivamente? Riesce a darmi una sorta di... Due spanne. Cioè, lui la tiene con una mano sola, ma perché la statua è due volte più grande di una persona. Quindi, in proporzione è come se fosse un... più piccola di una palla da calcio, più grande di una palla da tennis. Non mi viene il paragone corretto. Palla medica, forse? Arva ha specificato qualcosa? No. No, non è infatti. È un bel problema. Si gira verso il vescovo e fa... Mi scusi, ma... Ci sono altri spazi più ampi? Magari un posto dove, non so, delle catacombe dove tenete qualcosa di particolare? No, la chiesa è tutta qua. Il piano di sopra è la mia stanza. È letteralmente una stanza. Ah, ok, comprendo. Come mai? Intendi. Curiosità. Ti colpisce... Cercavo qualcosa. Ti colpisce Yelos? Più ciò che tiene in mano. La torcia? Era la torcia alla palla? No. No, no, l'altra, la sfera. Come mai? So, mi sento attratta. Mi chiedo se sia mai stata aperta. No. Si può aprire? Non lo so. Cioè, non esiste un metodo per farlo. La statua è un blocco di metallo unico, cioè, è stata cast in quella forma. Effettivamente. Master? Vai. Cioè, io guardo un attimo la palla e anche la statua di Yelos. Concentrandomi un po', sento qualcosa di strano. Rolla un di 10. Dico io il numero da aggiungere, che è un più 2. Ok, top. Allora, rolliamo. Ho fatto un 2. Non ti dice niente. Ok, ok. Io invece faccio un'altra domanda. Non è considerato dissacrante provare a toglierla, vero? Nel senso, vuoi danneggiare una statua? No, voglio semplicemente capire se è un pezzo a parte. Perché questa idea? È complicato da spiegare. Prova a farlo. Davvero? Sono qua apposta. Ottimo, perfetto. Penso che mi chieda aiuto a Nibel. A sto punto. Cioè, chi è che è abbastanza grande da provare ad arrampicarsi di sopra? No, intendeva dire, prova a spiegarmi per... Ah, ok. Gradirei di no. Perché no? Cioè, Perché... Hai un contratto? Ah... Sì, forse. È peggio di un contratto. Servirebbe a qualcosa riguardo quello che abbiamo parlato? Sì, in realtà sì. Riguardo la verità. Beh... Sono qui per questo. statua non è rotta, se la rimettiamo a posto dopo, no? Il sacerdote si passa una mano sulla fronte. Dice che sorride. E dice: questa statua è qua da 2400 anni circa. È quasi un miracolo che sia stato possibile realizzarla nell'epoca in cui è stata fatta, perché le tecnologie erano veramente molto meno raffinate delle nostre. Credo abbia un valore inestimabile. La chiesa gli è stata costruita intorno, quando è stata danneggiata in seguito alle guerre hanno ricostruito la chiesa intorno alla statua, che miracolosamente si è salvata. E sulla sua origine, sulla sua storia non si sa granché. Si potrebbe scoprire qualcosa in più se troviamo quello che sto cercando. Non le gradirebbe arrivare con una notizia scioccante, capire l'origine di questa statua, magari? In realtà un po' di curiosità ce l'ho. Rollami Persuasion, che è più 4. Allora, un secondo, non trovo lo slash. Quindi 15, 13. Credete di poterla riparare se la danneggiate? Il Miss si gira verso Nibel. Possiamo? Dipende dalla... se la sfera e il resto della statua sono collegati oppure no. Sono pezzoni. Solo è il tempo, ce lo saprà dire. Come sei simpatico. Magari possiamo dare un'occhiata. Beh, sono curioso di vedere dove è andata a parare. Prego. Mi fa battere le mani contenta e fa. Perfetto. Signor Rickard, vuole darci una mano? Il signor Rickard stava osservando tutta questa situazione un po' titubante. E vedendo un po' l'andazzo, si avvicina e dice: d'accordo, vi posso provare, ma cioè vi posso provare ad aiutare, ma non sono un esperto. Nemmeno io, ma facciamo finta che lo siamo. Ho notato. La sfera è sollevata? Come la tiene? Così. Cioè con l'altra mano, okay. Però. Secondo te, se sto in piedi, alzo le mani, ci arrivo? Sì. Okay. Vabbè, alzo le mani, mi avvicino, tocco la sfera, provo a muovere un pochino per vedere se è attaccata, se la stessa parte della mano oppure sembra essere un blocco unico, cioè le dita non sono fuse male insieme, cioè sembra che abbiano fatto la parte delle dita e poi l'abbiano fusa per attaccargliela. È una soldata tipo? Sì. Ok, sembrerebbero essere attaccate. Ah, fottetemi. Vuoi provare a salire? Sì, a sto punto magari vedere se c'è un'apertura. No, mi metto in ginocchio. Biff ti sorride imbarazzata. Grazie. E sale. Vedi qualcosa? Di più? No, la sfera è, da questo punto di vista, cioè da standoci proprio sopra, è innaturale quanto sia perfetta. Cioè, mentre il resto della statua, come ti dicevo, ha dei punti in cui è danneggiata, graffiata, eccetera, la sfera è perfettamente ricoperta di uno strato d'oro. E mi fa spalanca un pochino gli occhi e fa: se rompiamo questa cosa ci costerà la vita. Però è anche vero che forse ne vale la pena. Cosa dovremmo imparare dalla rottura di questa sfera? Io mi fa vedi che si sporge un attimino da sopra Nibel e fa: io spero veramente che ci sia quello che penso dentro. Se è così, mi è stato detto che una parte del quadro generale si chiarirà. Mentre stai ragionando e facendo la cosa, il sacerdote e la bionda, quindi sono vicini a Ricard, stanno parlando e il sacerdote dice: in realtà mi ha sempre colpito la presenza della sfera. Le altre statue di Yelos non hanno quella iconografia, non hanno una sfera che tiene in mano, non c'è una cosa del genere. Questa è l'unica in tutto il mondo ad avere questa peculiarità. E ho sempre pensato che fosse perché è molto antica e quindi magari nel culto originale c'era qualche riferimento a un astro, magari è la terra che brilla, cioè che assorbe la sua luce, non lo so. Però in effetti è fuori posto. Adone si avvicina a questo punto. Posso riprovare a studiare la sfera? Dimmi cosa vuoi fare di diverso, di aggiuntivo. A questo punto, essendo alchimia, che dovrei averlo capito, magari so qualche conoscenza nel provare a cambiare, cioè tornare indietro, comunque togliere la magia proprio. Se fosse alchimia, è una tua congettura, se fosse alchimia, con l'elettricità si annulla. Quindi ti basterebbe castare uno spell che fa danni da elettrici o infliggere i danni elettrici in qualche modo. Ok, passione tormentata lo fa? Sì. Sì. Ok. Allora, Adone, Ricard dice: potremmo provare a utilizzare l'elettricità su questa sfera, se alchimia si dovrebbe annullare. Anche se non sono sicuro che, cioè, ho paura che se la sfera rimane attaccata al resto della statua si sfalderebbe l'intera statua. È un rischio che vale la pena correre? Per voi? Non lo so. Per me? Sì, tu. Sacerdote ha dato carta bianca, fate quello che volete. Biff tira fuori una moneta. Una buona penny. Ok. Quindi lo faccio? Sì, dai, fallo. Vedi che Ricard ha tutto il peso del mondo sulle spalle quando si dice di sì. Scelta di parole interessante. Lo usi? Sì, lo uso. E lo descrivo nel dettaglio perché Os non l'ha mai visto. Comunque, tiri fuori un manapenny, trasferisci la tua forza magica al suo interno, il manapenny si consuma, cioè come se fosse stato inserito in un apparecchio, quindi il colore blu svanisce e diventa di un colore molto più biancastro. La roba che c'è dentro si consuma e quindi diventa anche parzialmente trasparente, rimane solo il guscio del manapenny. E Miff casta una spell, una stregoneria, che è appunto passione tormentata, che consiste nel convertire i suoi sentimenti in energia, in questo caso energia elettrica, e crea una scossa più piccola di un fulmine, più grande di l'elettricità e l'elettrostatica, e questa elettricità viene trasferita a tutta la statua per la parte d'oro in maniera immediata, quindi vedete proprio che si illumina per un istante. Nella parte bronza è in modo un po' più lento, ma anche lì, quindi vedete che dopo che si è illuminata si illuminano le parti scrostate e non succede niente. Nient'altro oltre a questa cosa che ho descritto. Posso toccare la sfera, vedere se magari si è smossa, qualcosa del genere? Perfettamente identica a prima. Non è stata, deduci che non è stata usata nessuna forma di alchimia per realizzare la statua. Ok. Dove ha funzionato? Sento qualche tipo di energia, cioè col fatto che Miff ha incontrato questa persona, mettiamola così, riconosce, visto che è un pezzo di lui, da quanto ho capito, la stessa presenza nella sfera. Mi rolli un D10 in un arcano, fai più 8. Cioè, è più una formalità. Sì. Minchia, che brutto dire. Sì, però hai fatto più di 10, quindi va. tu riesci a ridistinguere i tipi di magia, ok? Quel tipo di magia là ha una impronta chiara. La sfera è come se avesse un altro tipo di magia, che non conosci, cioè che non ti è per nulla familiare, non è una roba che hai mai studiato, non è una roba che hai mai incontrato nei tuoi viaggi. Ok. Dovendo darti un'indicazione, non è la stessa cosa, eh? Cioè prendi le distanze, però più di tutti assomiglia a Yadamak. Ok. Fine. Ok. Ma ti ripeto, non è la stessa cosa, non ha lo stesso vibe, eccetera. Sì, ho capito. Allora, non è stata utilizzata alchimia, quindi per forza bisogna rimuoverla in maniera fisica, mettiamola così. Qualcuno ha degli oggetti per poter trepare lievemente il contorno a cui è attaccata? Ti sembra cava all'interno? Ci batte le nocche. Per capire se lo è. Se la è, ha un bordo molto spesso prima di essere cavo. Ti riferisce esattamente questa? Può darsi che sia soltanto per risparmiare materiale, però. Può darsi anche che ci sia qualcosa dentro. Esatto. È quello che ho pensato da quando sono entrata. Mi ha sempre. È come se avesse chiamato, in più emana delle energie magiche particolari, quindi qualcosa è. Nibel è capace di romperla? Posso provare. Faccio scendere Nif e mi avvicino al mio zaino, prendo il piccone e do un'altra occhiata al sacerdote. Sicuro? Sì, ormai voglio vedere fin dove arriviamo. Mi avvicino col piccone, infilo la punta del piccone, se è possibile, tra il palmo e la sfera, e metto la mano sotto la mano della statua per fare leva, per evitare che tipo, cioè, se si faccio leva col piccone poi magari mi cade addosso la statua, per tenerla più solida, e poi faccio leva con il manico del piccone per cercare di sollevare la sfera della mano. Ok. Non funziona questa cosa, cioè la mano è tanto facile staccare la palla dalla mano, a quanto pare, cioè facendo dei tentativi, quanto staccare il braccio, cioè l'avambraccio dal braccio. Cioè hanno lo stesso livello di coesione, a quanto pare. Quindi avrebbe più senso staccare l'avambraccio? Non è praticamente sì. Tirare giù tutto quello. È abbastanza solida da non essere facile da staccare. È possibile staccarla? Sì, senza evitare danni? Non credo. Ora si alza. Posso in piedi? Provare... Ah, vai, scusa. Se volete posso provare ad aumentare un po' la vostra forza fisica, ma appunto non vorrei che si rovinasse completamente la statua. L'ideale sarebbe avere un saldatore, qualcuno che sappia manipolare il metallo, tagliare il metallo. Secondo te Nibel sa che qualcuno utilizza la magia di fuoco, non so se esiste neanche, può fare qualcosa. E ora avete capito perché volevo che ci fosse Ika, Dio porco. Però abbiamo ora. Se avessimo un quarto personaggio. Quindi vi va bene romperla la sfera? Cioè, volete vedere cosa c'è dentro? Esatto. Se per il sacerdote va bene. Vorrei, in realtà, con un colpo di piccone probabilmente riuscire a tirarla giù, però vorrei evitare di rompere anche il braccio. Almeno la statua vorrei che rimanesse intera. per quanto non mi interessi particolarmente delle divinità, è comunque un simbolo e le persone hanno bisogno di un simbolo. Sì, una magia di fuoco riesco a farla, se è questo che serve. Sì. Holy Fire, come cazzo si chiama quella spell lì. E posso provare a fare un taglionetto sulla sfera, oppure a scaldare il tuo piccone così che tu possa tagliarlo, come preferite. Non sono un esperto di lavori precisi, quindi se riesce a farlo lei sarebbe l'ideale. Ok, ora facciamo sta cosa, la prossima volta rischiamo di retconnarla, cioè la facciamo fare a che se c'è, però volevo chiudere la sessione su questa cosa qua e ho bisogno di togliere la musica, ho bisogno di togliere il bot per un attimo. Purtroppo mi serviva l'altro di bot, ma non va, quindi ce la teniamo così. Ora, in maniera leggermente esitante, si avvicina con una nenia ripetuta, una specie di preghiera, crea una spada fiammeggiante e ti chiede di aiutarla a salire sulla statua. E cerca un punto in cui riesce a fare un taglionetto in modo da danneggiare solo la sfera e non toccare il resto della statua. Quando è sul punto preciso, con un solo fendente, rapidamente taglia la sfera, rimane il segno della spada e la sfera si scioglie, cioè si scioglie in quel punto lì e si slida down e cade. E vediamo se il bot mi viene in... Oh no, oh mio Dio, Granic. Il tonfo di metallo della sfera per terra vi distrae abbastanza. La maggior parte di voi chiuderà gli occhi per questa cosa qua. E quando li riaprirete, vedrete che dalla sfera cola un fluido rosso per terra, di un rosso semitrasparente, molto liquido, molto poco denso, cola per terra attraverso le dita formando una pool, e questa cazzo di canzone dura veramente troppo poco. Ma è tipo slash loop per loopparla, non lo so su Zox come funziona. Cioè, sì, c'è anche qua, è vero dovrei averlo premuto io. Perfetto, l'ho premuto anch'io. L'ho premuto, però è entrato nel coso, quindi ripremila di nuovo perché l'ho disabilitato. Ok. Now disabled, madonna che rottura di coglioni, scusate, super anticlimatico. Ok, enabled. Ok. Non è tanto il fluido che vi colpisce, ma la cosa che c'era dentro questa sfera, che è un oggetto rosso, che è colato fuori, cadendo un po' più in là rispetto a dove è caduta la semisfera, e a tutti gli effetti, cioè alla vostra vista, è un cuore umano, la forma di cuore umano, con i vasi sanguigni ancora attaccati che si disperdono in varie direzioni. E la cosa più assurda non è questo, è il fatto che ritmicamente ogni secondo batte e ogni secondo emette del sangue o del liquido. Comunque la chiudiamo qua la sessione. Ovviamente sì, col cliffhanger. Dio. Sì, mi piaceva finire col cliffhanger. E boom, bella. Il tipo di cliffhanger, porco Dio. Persone che sanno, persone che non sanno. Ma secondo me non sai neanche tu. Ma io Eddie. Tu Eddie. Un'idea ce l'ho. Poi vediamo se è giusto o no. E niente, spero vi sia piaciuta l'inizio di Faithful. Sono molto incuriosito. C'è tantissima carne sul fuoco, non so come faremo a districare questa cazzo di matassa. Anche perché, però... allora, adesso Adone per motivi che scoprirete, è mega cauto, vi ha detto un po' di cazzate, però adesso che c'è la ciccia vera, mi sa che con calma inizierà a spiegarvi un po' di robe e porco Dio. Ok, per la cronaca, non è normale nel mondo che ci sia un cuore umano che batte. E soprattutto, soprattutto questa statua sta lì per 25 secoli, quindi vuol dire che quel cuore è lì dentro da 25 secoli. Sì. L'altra opzione era fare un home run col piccone, però non mi sembrava... Fare un bel buco. Sì, sì, così il sangue zampillava e rendeva tutto ancora più scenico, forse. Sì, sì. E... quindi io che sono sotto sono inondato di sangue. Sì, qualche schizzo l'hai preso, che è una meraviglia. E... bello. Bello, bello. Figo, figo, figo. L'altra volta, non te la posso mandare per ora, te la manderò quando entrerò in campagna, avevo fatto un disegno della scena iniziale, che era una roba strana di questo livello. E stavolta non l'ho fatto, un po' perché non credo di avere le abilità tecniche per disegnare una statua che perde sangue, eccetera, eccetera, troppo, too much per me. Però sì, io prendo una scena qualsiasi da Blasphemous. Sì, esatto, esatto, è vero, molto Blasphemous vibes. Una volta abbiamo fatto la lista di media Fateless Coded e c'era Atlantis sicuramente, però anche Blasphemous ci sta. Bloodborne, ovvio che c'è ovviamente. Bloodborne, manco a dirlo. No. Sì. L'altro c'è... ce n'erano un paio che erano proprio il Final Fantasy VII volendo, però prendiamo... L'ha caduto, non volevo fare la battuta perché non ho avuto il tempo, la caduta dal centro della chiesa è stata molto un Final Fantasy VII gode. Sì, effettivamente. Mamma mia. Bene ragazzi, adoro io... dal cielo.